si può fare. Cronache da un paese migliore. Sì! Può fare! Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati dalle 8.30 fino alle 11, oggi domenica, il buongiorno di Radio 24, 800 24 00 24 per poter intervenire in diretta, ma dopo il giornale radio delle 9, soltanto dopo. Per adesso, se volete interagire con noi in tempo reale, ci trovate su Facebook, si può fare trattino Radio 24, ma anche su Twitter, il nostro account è chiocciola, si può fare 24, il mio è chiocciola, Ale Maurizi. Come sempre, prima di dare uno sguardo alle prime pagine dei giornali, andiamo a raccontare una buona notizia. And now the good news. Oh, questa volta siamo a Palermo, dove tre detenuti, Theodor, Ivan e Giuseppe, per 2 mesi hanno contribuito a ripulire e a rimettere in sella, diciamo così, il sito archeologico del rione San Pietro, che da 15 anni era in stato di abbandono. Ebbene, l'hanno rimesso a posto. Adesso questi detenuti chiedono di poter continuare a fare questi lavori anche altrove, perché insomma l'esperienza evidentemente gli è piaciuta. Fa bene a loro, fa bene a noi, e le statistiche, ricordiamocelo, ci dicono che tutte le volte che ci sono percorsi alternativi al carcere o paralleli, poi la recidiva è minore. C'è un'assicurazione per tutti che queste persone non tornano a commettere reati. Perché sennò poi dice che siamo buonisti, che ci interessa solo la vita dei carcerati, ma questa è una cosa che fa bene, lo ripetiamo a tutti. Che cosa c'è invece oggi sulle prime pagine dei giornali? Naturalmente ecco di quello che è successo ieri a Palazzo dei Congressi, alla rinascita di Forza Italia a Roma, e con la separazione con gli alfaniani, ma poi anche altre notizie. Per esempio il ministro dell'economia Saccomanni, che dice sulla prima pagina del Corriere della Sera: nessun sacrificio in più, c'è il piano per ridurre il debito, parla il ministro dopo, all'indomani del giudizio preliminare della Commissione europea sulla legge di stabilità. Fabrizio Saccomanni respinge commenti acidi e conclusioni affrettate: non ci sarà nessuna manovra aggiuntiva, né dovremo studiare interventi supplementari. Perché invece era sembrato proprio questo, all'indomani della bocciatura europea sulla legge di stabilità, il rischio di sforamento del 3% del patto deficit, nel rapporto deficit-PIL, cosiddetto patto di stabilità. Saccomanni rassicura: state tranquilli, è tutto sotto controllo. Ma dicevamo, la politica in primo piano, Berlusconi, strappo e segnali di pace, perché è questo doppio binario che tutti i giornali mettono in evidenza. Rinasce Forza Italia, ma il Cavaliere non chiude con il nuovo gruppo di Alfano. Lacrime sul palco, lieve malore dopo un discorso di 90 minuti, il vice premier Alfano che dice: il futuro siamo noi. Andiamo a vedere un po' all'interno del Corriere. Intanto i numeri della nuova situazione parlamentare, con una maggioranza a questo punto accreditata per il governo Letta di 169 senatori al Senato, la maggioranza richiesta è di 159, quindi ci sarebbe un margine di 10 senatori. Alla Camera non ci sono problemi perché la maggioranza è molto più ampia, l'ha detto ieri sera lo stesso Berlusconi: non siamo decisivi per far cadere il governo. Poi c'è il commento di Pierluigi Battista, che dice: il niente del Cavaliere ai numeri 2, e in effetti sono 20 anni di astri nascenti bruciati, da Tremonti a Casini a Fini, tutti i casi di Delfini messi da parte. Dove erano ieri Giulio Tremonti, Fini, Casini, Follini, Buttiglione, i volti di Forza Italia che affiancavano il leader nel 94? Gli alleati della Lega erano forse lì a festeggiare il ritorno di Forza Italia? Non c'era nessuno, ma anche questa è una cosa che Berlusconi ha bruciato i giornalisti, perché l'ha detto lui stesso: siamo qui, ma ci manca qualcuno delle nostre colonne storiche che hanno partecipato, insomma, alla fondazione di Forza Italia. Berlusconi ha bruciato in 20 anni tutti i numeri due che si erano accreditati per questo ruolo. Ricordiamoci che Alfano l'aveva messo lì proprio lui. Dalla prima pagina del Corriere ancora due notizie. Una riguarda il Festival del Film di Roma: un verdetto da follia collettiva contro il cinema, scrive il Corriere. A Roma vincono il docufilm Tir e La voce di Scarlett, due decisioni che secondo i critici del Corriere della Sera insomma penalizzano un po' il cinema vero, perché sono un docufilm da avere vinto il Festival di Roma. Vabbè, andiamo sulla prima pagina di Repubblica, dove c'è un'altra notizia. Cancellieri: Vanno a Roma le carte della procura. I PM decidono se indagarla. L'ipotesi di falso per le telefonate all'Ligresti. Che succede? La procura di Roma invierà ai colleghi di Roma il dossier cancellieri, una scelta obbligata con una possibile clamorosa svolta. I magistrati di Giancarlo Caselli potrebbero iscrivere il ministro, che finora non è stata iscritta, nel registro degli indagati per aver fornito false informazioni ai PM nell'interrogatorio del 22 agosto. Infatti è un'ipotesi che non è così improbabile, perché dice il falso, ci ricorda Repubblica, non solo chi mente secondo il codice, ma anche chi omette di raccontare quello che sa, e sarebbe quello che avrebbe fatto il ministro Cancellieri. Quindi all'orizzonte potrebbe aggravarsi la situazione del ministro, essere una grana in più sul cammino del governo Letta. C'è anche un'intervista a Franceschini, il ministro per i rapporti con il Parlamento, su quello che è successo ieri e anche, diciamo, gli orizzonti che si aprono per il governo a questo punto, più o meno solidi dopo lo strappo di Berlusconi. Dice Franceschini, che torna ancora indietro di un giorno: la giornata di venerdì è stata paradossale. I sindacati che dicono che nella manovra c'è troppo rigore, la Commissione europea che sostiene che ce n'è troppo poco. Già, questa è la situazione complessa del governo. Quello che accade nel centrodestra, dice Franceschini, non ci risolve i problemi, ma ora, senza diktat e veti, il governo potrà fare scelte coraggiose. E non si sa se questa è una promessa o una minaccia, potremmo commentarla così, di Franceschini. Però, insomma, stiamo alle dichiarazioni. Sulla stampa, il commento di Marcello Sorgi è: un parricidio senza sangue, un terzo al governo, due terzi all'opposizione, ecco la nuova strategia di Berlusconi. E chi si aspettava ieri dal leader del centrodestra un'intemerata contro i traditori come Alfano e i suoi sono chiamati da tempo, da falchi idealisti della rinata Forza Italia, ha dovuto assistere tutto al più alla ramanzina di un genitore amareggiato, sì, ma al fondo generoso verso il figliolo ribelle che si spera possa tornare prodigo. C'è una fotonotizia sulla prima pagina della stampa, è questa: USA, il bimbo malato eroe per un giorno, affetto da leucemia, San Francisco si trasforma in un set per esaudire il suo sogno di diventare Batman. E la foto è quella di un Batman che tiene tra le braccia Miles Scott, 5 anni. Che succede? Che ieri 12.000 persone per le strade di San Francisco hanno fatto la comparsa a questa scena da film, il cui protagonista era appunto Miles Scott, 5 anni, che vive a Tulake nella California del Nord, da quando a 20 mesi combatte con una terribile malattia, la leucemia, e la fondazione Make-A-Wish, credo letteralmente realizza un desiderio, pronuncia e gli consente di essere un vero Bat-Kid, vestendo il costume, viaggiando sulla macchina e ripetendo le gesta di Batman, il suo eroe preferito. Questo è quello che fanno gli americani. C'era anche il sindaco di San Francisco per questa messa in scena. Ci dobbiamo fermare qua, perché lo spazio a disposizione per le prime pagine dei giornali è finito per il momento. Adesso andremo sul domenicale e noi ci troviamo dopo il giornale radio. Differenziata, riciclo dei rifiuti con la differenziata, ci guadagnerebbero le città, daremmo lavoro ai giovani, come all'estero. Molto di più si può fare, i comuni non fanno niente per questa differenziata, e potreste voi incentivare i comuni a fare di più, specialmente al sud. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati. Restiamo in edicola come abbiamo fatto fino adesso, per parlare però a questo punto, come ogni domenica a quest'ora, di cultura con la C maiuscola. Lo facciamo segnalandovi le notizie e gli approfondimenti che ci sono sull'inserto culturale del Sole 24 Ore, il domenicale. Ritroviamo il curatore responsabile, il direttore Armando Massarenti, anche oggi in trasferta. Ciao Armando. Buongiorno a tutti. Allora Armando, prima di tutto va avanti l'iniziativa l'iniziativa che ci è molto piaciuta, l'iniziativa filosofica del Sole 24 Ore, del Domenicale in particolare. Ci sono anche degli annunci da fare, tra l'altro, sulla cultura. Io dicevo con la C maiuscola, ma insomma ce ne parli tu seriamente, Armando. Ma sì, cerchiamo sempre di unire, diciamo, alto basso, senza mai perdere di vista che cos'è l'alto. E questa volta l'alto è un gioco che riproponiamo, quello dell'alto che è insieme basso nello stesso tempo, Tweet Sofia. Se volete continuare a seguirci dopo l'esperimento riuscitissimo che abbiamo fatto con Epicuro e la felicità tra antichi e moderni, cioè come gli antichi ci hanno proposto qualche cosa che è ancora attualissimo, cioè le modalità per essere delle persone felici, questa settimana invece parliamo di Eros, perché ci leghiamo al volume che poi verrà messo in vendita insieme al Sole 24 Ore da martedì, che è niente meno che il simposio di Platone. Ma lo leghiamo ad un evento molto importante, cioè all'uscita di un libro di un importantissimo divulgatore filosofico, Alain de Botton, che ha scritto un vademecum per la storia dell'arte, un vademecum filosofico insieme a John Armstrong, che è un critico dell'arte. Il volume esce per Guanda, c'è una bellissima recensione di Anna Livigni, che è una esperta di neuroestetica, tant'è che cosa viene descritto? Intanto si fanno degli esercizi esattamente come quelli che noi proponiamo con questa nostra serie filosofica, di volumi filosofici, di giochi filosofici, cioè si fanno degli esercizi attraverso l'arte, però, di riflessione filosofica attraverso l'arte. E questo libro immagina un museo ideale dentro il quale noi abbiamo cercato proprio dei percorsi che riguardano l'Eros, che praticamente è costruito sulla base delle emozioni e dei sentimenti che queste opere possono suscitare: dolore, paura, felicità, ottimismo, e chiaramente appunto l'Eros, l'amore, sono è forse quello che riesce a caratterizzare meglio buona parte di tutte queste emozioni. Senti Armando, hai detto alto e basso, abbiamo volato altissimo con Platone, cosa c'è di più basso di Fantozzi, verrebbe a dire, però voi riuscite a tirarlo su, soprattutto parlando di linguaggio fantozziano. E dunque, Fantozzi è assolutamente un personaggio fondamentale per il nostro immaginario collettivo. La tesi di Claudio Giunta, che ha scritto un libro che si intitola Una sterminata domenica, quindi quanto mai in tema con la nostra domenica, che è, diciamo, insomma, è sterminata soprattutto per la quantità di cose che proponiamo, ma anche anche in profondità. E questo è un pezzo leggerissimo, devo dire, godibilissimo, divertentissimo, come era appunto il personaggio di Paolo Villaggio, ma anche molto profondo, perché ci fa capire che quella che era una parodia del mondo del lavoro, così come si stava trasformando, siamo all'inizio degli anni 70, quindi più di 40 anni fa, è qualcosa che ha segnato il nostro immaginario e ci ha fatto capire veramente, più di tanti altri libri, romanzi di fabbrica molto impegnati che allora uscivano, come stava cambiando il mondo del lavoro, i rapporti all'interno del mondo del lavoro, soprattutto quello degli impiegati e dei colletti bianchi. Insomma, però se andate sul Domenicale di oggi, in edicola, troverete l'articolo di Claudio Giunta, il saggio, e ritroverete anche tante cose linguistiche che siamo abituati ad utilizzare, e ci renderemo conto che in effetti derivano proprio da quel mondo lì che ci stava raccontando Armando Massarenti. Prima di parlare della copertina, sì? Volevo dire una cosa, dare una notizia anche, anzi darci un appuntamento, perché giovedì pomeriggio alle 2:30 nella nostra sede di via Monterosa 91 a Milano, la Sala Collina, avremo come ospite il primo ministro Enrico Letta, oltre al presidente della Confindustria Squinzi, al direttore del Sole 24 Ore, e faremo che cosa? Gli stati generali della cultura 2, cioè l'anno scorso già li avevamo fatti col presidente della Repubblica, certo. Giorgio Napolitano, e quest'anno appunto ci confrontiamo. Sarà presente soprattutto la neosenatrice Elena Cattaneo, di cui pure pubblichiamo un articolo, una riflessione su quanto la cultura sia centrale per poter rinascere anche economicamente, la cultura scientifica, ma non solo, lei è una scienziata ma fa un discorso chiaramente molto molto ampio, ecco, quindi ci tenevo a darvi questo appuntamento, chiunque certo, voglia venire è assolutamente pregato di farlo, basta registrarsi nel nostro sito che è Stati Generali. Sì. dellacultura.it. Benissimo, adesso torniamo di nuovo coi piedi per terra, anzi con le mani e con gli occhi sul domenicale di oggi. La copertina la dedicate a, così, a una cosa interessante, al mondo dei sogni, i sogni di uno dei più grandi scrittori europei. Sì, abbiamo, tutti avranno visto l'ultimo film di Kubrick, Eyes Wide Shut, che era appunto dedicato, era ispirato ad un libro che si chiamava Doppio Sogno di Arthur Schnitzler, che è uno dei più grandi scrittori del Novecento. Però la cosa bella del libro che noi proponiamo in anteprima nella copertina sono i sogni, e lui ha scritto moltissimo sui sogni, dei sogni, ma i sogni che pubblichiamo noi sono stati pubblicati da poco tempo in tedesco e per la prima volta adesso in italiano, quindi insomma è una prima assoluta per i nostri lettori, però di questo credo sia meglio che parli il nostro ospite. Certo. Di oggi. E allora lo salutiamo, Vittorio Lingiardi, buongiorno. Buongiorno. Eccolo qua, Armando, prego, sì. Chi è Vittorio Lingiardi? Te credo lo sappiano i nostri lettori perché è un nostro collaboratore, soprattutto è uno psicologo junghiano, di origine junghiana, che ha fatto una riflessione molto bella, non a caso tra l'altro anche Jung era stato, nella sua introduzione peraltro cita sia Freud che Jung, però Schnitzler ha una particolarità ancora diversa nel raccontare i sogni, ecco, è quello che gli chiederei di dire ai nostri ascoltatori. Prego Lingiardi. Allora, buongiorno, grazie. Ha ragione Armando nel sottolineare la particolarità di Schnitzler nel raccontare i sogni. Direi che Schnitzler nel raccontare i sogni è più bioniano che freudiano. Cosa vuol dire? Vuol dire che non cerca l'interpretazione, la riduzione del simbolo a un significato, ma si lascia trascinare dall'importanza del flusso narrativo. E dentro i sogni racconta la sua vita, così come la sua vita è profondamente sognante, e del resto chi ha letto Doppio Sogno lo sa e chi ha visto il film di Kubrick Eyes Wide Shut lo sa. Con Agnese Grieco, germanista e donna di teatro che vive a Berlino, abbiamo curato questa edizione, abbiamo scritto questa introduzione, Il sogno si fa vita, appunti sul Traumbuch di Arthur Schnitzler, in cui ci occupiamo sostanzialmente di vedere come nei sogni di 50 anni di notti schnitzleriane, dal 1875 al 1931, passa la vita della grande Vienna fin de siècle, Freud, Klimt, von Hofmannsthal, Mahler e molti altri sogni. C'è un bellissimo sogno di Alma Mahler, per esempio. E poi vogliamo cercare di mostrare come questi sogni e anche gli scritti sulla vita onirica e sulla psicoanalisi, di cui Schnitzler era molto appassionato, propongono anche un certo dialogo critico con la psicoanalisi, che in quegli stessi anni iniziava a nascere proprio nella stessa Vienna schnitzleriana, e quindi è interessante vedere Schnitzler che ridimensiona la portata del complesso edipico, che rimprovera alla psicoanalisi di non avere degli agganci empirici solidi e rimprovera agli psicoanalisti di generalizzare troppo e di essere forse troppo legati a una meccanica dell'io, dell'esse e del superio. E concludiamo cercando anche di mostrare a questo punto perché poi Schnitzler amasse tanto il cinema e perché il cinema abbia amato tanto Schnitzler. Pensate che dai testi schnitzleriani più importanti, Doppio Sogno, Girotondo, Libelai, Signorina Else, sono stati ricavati più di 70 film, alcuni famosissimi, Vadim, Max of Fools, Kubrick, altri meno noti, e la particolarità di questo libro è anche di avere un magnifico inserto, questo lo dobbiamo anche alla generosità del Saggiatore, che è l'editore di questo volume, un bellissimo inserto di locandine a colori dei film tratti dai lavori di Schnitzler, e ho qui davanti a me questa meravigliosa Elisabeth Berner che interpreta Fraulein Else, o Ramon Navarro in un altro film ricavato da Schnitzler, o la Ronda di Max Ophuls con una magnifica giostra di personaggi innamorati. che racconta un po' la storia del girotondo. Ci dobbiamo fermare qua, grazie Vittorio Lingiardi, ci vorrebbe più tempo, tutta una notte forse, per parlare dei sogni di Schnitzler, ma anche dei nostri, però noi dobbiamo fermarci qua col nostro tempo radiofonico che si esaurisce qua. Salutiamo anche Armando Massarenti, direttore del Domenicale, buongiorno Armando, noi ci ritroviamo domenica prossima. Arrivederci, grazie. Naturalmente, grazie. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati, vi invitiamo a intervenire in diretta come ogni domenica, 800 24 00 24 per raccontarci le vostre buone notizie della settimana, per commentare i fatti della giornata di ieri, della settimana, tutto quello che volete. Due sono i temi principali oggi, cari ascoltatori, beh insomma amici elettori del centrodestra, chiamateci per raccontarci come avete vissuto la giornata di ieri, se siete contenti finalmente. Ognuno per la sua strada, Berlusconi e Alfano, Alfano con gli alfaniani a sostenere il governo Letta, a fare le larghe intese, e i berlusconiani stretti attorno al loro leader, oppure invece se, come qualcuno ha scritto, si tratta di farza Italia, di una divisione farsesca, insomma siete insoddisfatti da queste divisioni nel centrodestra. 800 24 00 24, altro tema importantissimo, siccome da ieri si apre la settimana, si è aperta la settimana europea per la riduzione del rifiuto e andrà avanti tutta la settimana, e noi ne parleremo tra poco con un ospite, un italiano eccellente, premiato anche nel mondo per le cose egregie che sono state fatte in Toscana, nonostante la terra dei fuochi, insomma abbiamo qualche eccellenza anche in questo campo. Vi chiediamo di chiamarci 800 24 00 24, raccontateci la vostra regola d'oro per ridurre i rifiuti, se fate la raccolta differenziata di una cosa in particolare, se andate tutti i giorni all'oasi ecologica, se fate la differenziata in un modo particolare, se ci sono oggetti che riciclate mille volte, le ricette, la regola d'oro più bella, le tre regole d'oro più belle, tre ascoltatori vincono ognuno due biglietti per la mostra di Andy Warhol che è in corso a Milano in questi mesi. Quindi chiamate 800 24 00 24, a tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Everybody get up. Buongiorno Carlo Gabardini. Buongiorno a tutti. Di nuovo insieme a noi, oggi un pochino prima, anticipiamo. Oggi sì, sempre prima. T'ho detto, è in realtà un'operazione curativa che paga mia mamma per far sì che io anche la domenica mi svegli presto. Per anticipare l'ora della tua sveglia, renderti sobrio, sveglio e partecipi anche il sabato, la domenica. Ma ormai sono sobrio dal lunedì, perché aspetto il sabato, quindi assolutamente. Sì, qual signori. È la tua regola d'oro per la raccolta differenziata, per ridurre i rifiuti? Tu pure ce l'avrai, tu che sei un po' disordinatello. È veramente un disastro, infatti spero di sentire dei consigli ottimi, perché a casa mia è arrivata da poco addirittura anche l'umido, che a Milano lo stanno lentamente mettendo, cioè l'umido alle pareti la divisione anche dell'umido, che ecco, da noi il 9 dicembre inizia anche nel nostro condominio, nel mio quartiere è già iniziata, vedi, va tutto bene, ti posso tranquillizzare. E Milano si divide praticamente fra quelli che conoscono l'umido e quelli che devono ancora conoscere l'umido, perché pare che sia abbastanza complicato e impegnativo, perché devi proprio avere il sacchettino con dentro tutte le cose che... Quelli che ti stanno ascoltando da Capannori in Toscana, tra poco sentiremo il miracolo di Capannori, ridono perché dicono: ma guarda, questi sono ancora lì con l'umido, noi è da anni che lo facciamo. È vero. Beh, io sono però un caso particolare, sono pessimo in questo e devo essere educato. Ho mia sorellina che di solito mi sgrida moltissimo per questa cosa. E invece dove sei preparatissimo è sulle notizie della settimana. Le notizie. Sostanzialmente una notizia che mi interessa, anche perché se ci dovessero essere degli ingegneri in ascolto, io spero che chiamino, perché è una notizia che ha una sua complessità e se qualcuno ce la spiega meglio ne sono anche molto contento. La notizia è che l'energia è dentro di noi, che detto così, diciamo, non è una cosa detta da un santone o da qualche religione, no, noi produciamo ogni giorno miliardi di litri di energia ma la buttiamo via. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'energia elettrica a centimetro zero addirittura noi la possiamo autoprodurre, perché è possibile attraverso l'utilizzo dell'urina. questo è un, vabbè, una scusa come un'altra per parlare di cose così, insomma, dici. No, no, anzi, tutte, guarda, perché è il termine tecnico, usiamo il termine tecnico, che è urina, perché in realtà è un vecchio progetto sul quale si sta studiando da un sacco di tempo, che però aveva sempre creato dei problemi. Oggi finalmente questi problemi pare che siano superati ed è finalmente possibile produrre energia pulita con l'urina grazie al sistema ideato da un italiano firmato da Franco Lisci, che è un ricercatore progettista di impianti. Lavorava alla Fiat prima e adesso si è messo in proprio, diciamo, e da oggi è anche un produttore di motori di energia elettrica normati a legge e certificati dalla Comunità Europea. I problemi, per esempio, uno dei problemi che c'era era un problema di rumorosità, che però è stato risolto grazie a un filtro specifico di pura lana di pecora. Questo per dire che è stata usata anche una sinergia, perché tutto questo succede in Sardegna, ad Alghero. Sembravi proprio uno di quelli lì che l'hanno fatta questa cosa, l'hai detta talmente bene, esatto. Bravo. No, e per dare un dato, così magari appunto qualcuno ci chiama anche che conosce la questione, il costo, ad esempio, per tenere accese per 6 ore consecutive 40 lampadine a risparmio energetico più una piastra elettrica oppure un forno a microonde è di 1,5 litri di urina. Quindi diciamo che se vi scappa la pipì siete ricchi. Per aggiungere un particolare, l'energia a urina è adatta non solo per i consumi domestici, ma anche per i motori delle automobili, che poi è il problema che abbiamo tutti. Vabbè. Quindi, perché... Adesso vogliamo parlare tutta la settimana, non so, c'è qualcosa col microfono intanto che non funziona, vogliamo parlare tutta la mattina della pipì? Della pipì, no, però è importante, perché in Italia non è ancora possibile fare un motore a urina, però si può usare come additivo, e quindi hanno iniziato, diciamo, a fare dei motori per automobili per cui tu puoi aggiungerci il 35% di pipì, e questo è fondamentale, perché tutte le volte che io salivo in macchina mia mamma mi diceva: Carlo, ti sei ricordato di fare la pipì? Adesso invece tutte le mamme dovranno dire: vi siete ricordati di non fare la pipì? Si piscia in autostrada! Vabbè, questa non era male, ed era anche vera, tra l'altro. Assolutamente vera. Verissima. Poi, due notizie flash, diciamo, sciacca, il prossimo carnevale hanno vietato gli sfottò al comune. I carri del carnevale di Sciacca non dovranno contenere nelle loro allegorie forme di protesta. Questa cosa è un assurdo, perché la norma, diciamo, incriminata è proprio contenuta, ironia della sorte, nell'articolo 21, che nella nostra Costituzione in realtà è la garanzia per tutti i cittadini di manifestare la propria opinione. Qui invece dice: è fatto assoluto divieto nel corso della manifestazione di esporre o pronunciare frasi di dissenso, plateali, forme di protesta e ogni altra forma di espressione ed esternazione lesiva dell'immagine della kermesse. Questo è un assurdo, perché il carnevale, il principio è proprio questo, il principio è che per un giorno il popolo si può prendere beffa del potere. Certo, sennò che carnevale è? Esatto, ed è solo un giorno, se ci togliete anche quel giorno lì, diciamo, diventa un problema. Ultima notizia, rapidamente, Carlo d'Inghilterra è da oggi ufficialmente un pensionato a 65 anni, l'erede al trono. Ho festeggiato con la moglie Camilla in India, dove si trova nell'ambito di un tour di 9 giorni in cui parteciperà anche all'apertura del lavoro del summit dei capi di Stato e di governo del Commonwealth. Per farci capire, questa cosa qui è una cosa che dal 1952 la regina, dal 52, quindi in 61 anni, la regina ha perso solamente in un'altra occasione, e questa notizia viene data a conferma del crescente potere che negli ultimi tempi è stato trasferito al principe. Cioè che per la seconda volta in 60 anni è riuscito a fare questa cosa lui, esatto, al posto della andare mamma. A una festa. Complimenti. Era un po' mesta quest'ultima notizia, però ti perdoniamo. Era dedicata a mia mamma. A proposito di Commonwealth, no, a proposito di Africa, che non fa parte del Commonwealth, c'è una bella storia che adesso vi andiamo a raccontare, e in realtà ce l'ha. È un'intervista che ha fatto il nostro Dario Ceccarelli a chi? A Matteo Sametti, fondatore assieme alla moglie della Aulus Sport to Build, che sta raccogliendo fondi per creare, per costruire una scuola in Africa, una scuola speciale che metterà insieme, oltre alle lezioni in classe, lo sport, l'arte, la danza e le attività manuali. Per questo lui ha fatto un viaggio speciale in bicicletta dallo Zambia a Londra in vista delle Paralimpiadi. Ci ha messo 2 mesi e mezzo, ha fatto 8.300 km, ha scritto un libro, La bicicletta di bambù, perché lui questa cosa l'ha fatta con una bici realizzata da lui stesso in bambù. Sentiamo l'intervista di Dario Ceccarelli. Sono quelle cose che uno immagina ma poi non fa. Matteo Sametti, ex commercialista di 44 anni, fondatore dello Sport to Build in Zambia, invece l'ha fatta. Con una bici di bambù è andato da Lusaka, nello Zambia, a Londra per realizzare una scuola che associa lo studio allo sport. Quanti soldi abbia raccolto ancora non si sa. Di sicuro Matteo in 2 mesi e mezzo ha messo assieme 8.300 chilometri in strade pazzesche, con un caldo feroce, dormendo davvero sotto un tetto di stelle. Matteo, ma cosa ti è venuto in mente? Di fare un viaggio in bicicletta ce l'avevo sempre in mente da un po' di tempo. Poi ci sono stati un po' di circostanze che mi hanno fatto capire che era il momento giusto. Uno, finivo una esperienza lunga in Zambia di cooperazione, che ho iniziato nel 2006. Due, c'erano le Olimpiadi. E tre, una regina tradizionale che lavora con noi in Zambia su altri progetti ci ha chiesto se eravamo interessati a fare una scuola nel suo regno. E quindi ho detto ora o mai più. E quindi sono partito per questo viaggio. Senti, ma è la domanda che si fanno tutti. Tu eri un commercialista, avevi una vita tranquilla, avevi una famiglia, eccetera. Qual è la molla? Cos'è che fa scattare questa voglia di andare via? Ma io sì, è vero, ho sempre voluto fare commercialista da un certo punto della mia vita. Poi sono stato fortunato, mi sono laureato, ho fatto l'esame di commercialista subito, senza altri praticantati, 3 anni. E però avevo contemporaneamente questo amore per l'Africa, che ho maturato, insomma, lungo questi 10 anni che ho fatto la professione commercialista, ce l'avevo sempre. E poi quando mi è capitata l'occasione buona, ho detto, è l'ora di andare, anche perché non volevo andare in Africa eccessivamente anziano, volevo andare quando avevo ancora il meglio da esprimere. Senti, ma torniamo a questo viaggio dallo Zambia a Londra. Ne avrai viste di tutti i colori. Mi è rimasta in mente una tua frase che dice: l'inferno è un phon puntato sul viso. Spiegacela un po'. Beh, questo è il Sudan. Sono passato dal Sudan. Il Sudan è completamente piatto, però soprattutto da Khartoum all'Egitto è un deserto caldissimo, ci sono anche 57 gradi e in più tira vento. Quando il vento è a favore si va bene, quando il vento è contro è una tragedia, quindi è difficile bere, è difficile respirare, si vorrebbe respirare come quando si nuota e si cerca un po' d'aria respirabile. Si deve contare molto sull'acqua che non c'è e quindi è un'esperienza molto dura, ma alla fine lì facevo 70 km al giorno, mentre in media ne facevo 130, quindi questo per dare un'idea della fatica. Questo è stato, immagino, il momento più difficile. Il momento più bello che ricordi con più piacere? Beh, i momenti belli ce ne sono stati tantissimi. Uno però che mi piace ricordare è in quest'orgia, io la chiamo orgia sterrata zambiana, dove veramente la strada è bruttissima, piena di pietre, e su una salita dove io arrancavo pesantissimo con la mia bici ho incontrato un vecchietto musulmano, l'ho visto in fondo, e quando sono arrivato a 50 metri da lui, lui si è piegato e ha preso una pietra e me l'ha lanciata via dal percorso e mi ha detto Safari Njema, che vuol dire buon viaggio in Swahili. Mi ha dato una grandissima carica, una specie di doping, perché comunque in un viaggio così da solo l'aiuto delle persone è stato fondamentale. Dell'Africa che cosa hai capito? Niente. La domandona. No, dell'Africa sto capendo, l'Africa è l'Africa, ha tantissime sfaccettature religiose, economiche, politiche, c'è di tutto, è ancora terra di conquista di tutti, dalle chiese alle potenze economiche, agli altri stati, c'è ancora molto da capire sull'Africa, ma io quello che ho capito e per cui mi batto è sono contro ogni forma di assistenzialismo, quindi penso che l'Africa va aiutata ad aiutarsi. Ti sei stupito un po' di te stesso? Sì, beh, io dico sempre che io sono un po' un segalitico, non so se si può dire in radio, però non sono un ciclista fortissimo. Questa è più una prova di testa, di durata. Quello che si voleva dimostrare anche con questo viaggio, con questa esperienza, è che si può fare molto anche con poco. Sì! Si può fare. Cronache da un paese migliore. Carlo, tu dicevi prima a Milano, nella tua zona, si comincia a fare la raccolta dell'umido. Sì, c'è un ascoltatore che, a proposito di regole d'oro per la raccolta differenziata, la riduzione dei rifiuti e le vostre buone notizie, ci dice su Twitter, adesso poi rintracciamo anche chi è, aspetta che lo troviamo, sì. Aspetta che lo troviamo, il nome dell'ascoltatore è Giacomo Biraghi, che ci dice: una buona notizia da condividere è questa, Milano che è ai vertici in Europa per raccolta differenziata, anche se attenzione perché la statistica è questa. Ogni abitante produce 149 chili di raccolta di rifiuti differenziati ogni anno e abbiamo superato in questo Vienna, Monaco, Berlino e Parigi. Cioè questo solo a Milano ognuno sì. Crea 149 chili di rifiuti già differenziati. Però siccome di rifiuti bisogna produrne anche meno, non è la quantità assoluta che produciamo di raccolta differenziata che può di per sé essere, cioè, certo. Bisognerebbe abbassare proprio la quantità di rifiuti, quindi questa è una classifica, però insomma bisogna capire, diciamo, se la classifica si vince andando in testa o andando in coda. Anche questo potrebbe essere. Questa l'ha diffusa il Comune di Milano, quindi va presa un po' con le molle, però da un po' di tempo è partito anche la raccolta dell'umido, come ci testimoniavi anche tu, e quindi Milano si sta ponendo in linea con le grandi capitali del nord. 800. E anche l'SMS, devo dire che c'è gente che dice no, da noi si fa già da un sacco di tempo, qualcuno dice a Bolzano è iniziato da un anno, insomma, vengono ottimo, fuori ottimo. Cose interessanti. Esatto. 800 24 00 24, ci chiama Alessandra da Milano, buongiorno. Ciao Alessio. Eccoci qua Alessandra, cosa ci voleva dire? Dunque, io sono un insegnante di Milano e da anni raccogliamo occhiali usati per i nostri, con i nostri alunni. Vedi. E, quindi stai partecipando al concorso Alessandra, cioè vuoi vincere i biglietti per la mostra di Warhol con la tua regola d'oro? Per... Sì, ma anche comunicare questa cosa bella. Sì. Per tutti, e li diamo a un ottico che fa parte di questa associazione che li risistema e li... E diciamo... a chi li date poi questi occhiali risistemati? E poi vanno a questa grande associazione internazionale, One Sight, se si può dire, che li, ogni anno, ogni sei mesi, li porta a delle popolazioni bisognose nel mondo, in India, piuttosto che in Africa. In Va Canada, bene, questa cosa che fate degli occhiali mi sembra interessante e originale, perché in effetti uno ogni tanto li cambia e cosa ci fai con la vecchia montatura? A volte niente. Ma poi vi mandano delle foto? Via, così, ma vi mandano delle foto queste Alessandra. Popolazioni con addosso i vostri occhiali con altre lenti? No, sarebbe divertente, sarebbe bello. No, però c'è il sito e si può vedere. Si può vedere, perché è un po' come ottimo. Adotta un paio di occhiali e fammi vedere. Esatto, esatto. Allora, siccome Alessandra ci ha mandato anche un SMS, perché vuoi assolutamente vincere la mostra di Andy Warhol. Questa, e ricordiamo questa... che l'SMS non vale per vincere, ma bisogna assolutamente telefonare per dire il vostro... Quindi Alessandra partecipa a tutti gli effetti e si candida anche perché l'originalità già c'è. Pasquale da Bari, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Lei su cosa volevo intervenire per la giornata di ieri del PDL. Lo sfogatoio degli elettori di centrodestra. Prego, lei come l'ha vissuta? Io l'ho votato fino a febbraio. E poi? Fino a febbraio. Per 20 anni l'abbiamo votato all'amico Berlusconi. Adesso? Adesso Alfano vuol fare l'altra chiesa cattolica. Berlusconi. C'è lo scisma alfaniano. Lei dice ieri, che c'è uno scisma. Sì. Un mese fa, tre mesi fa. Alla vecchiaia è entrato in depressione, ma... perciò ci fa capire che è diventato vecchio. Ma Alfano Berlusconi è in depressione, scusi? Piange sempre, ma negli ultimi periodi ogni discorso che fa si mette a piangere. Ma Alfano Berlusconi dice che è in depressione? Berlusconi! Eh no, siccome la Mussolini ci ha detto che Alfano all'ultimo direttivo piangeva... Lascia stare, allora... la Mussolini anche lei la scenografica. Pasquale, però noi siamo, amanti dei sondaggi, delle statistiche. Lei a chi si ascrive? Vogliamo fare anche noi il nostro piccolo sondaggio. A quale delle due correnti si ascrive? Agli alfaniani o a Berlusconi? A nessuno delle Hai due. Hai delusi? Lei cosa... un'altra volta. Io li ho votati per 20 anni. Va bene. Quindi voterà PD adesso. Devono andare via tutti quanti. Va bene, grazie Pasquale. Certo, grazie Pasquale. C'è anche una... basta con Pasquale, non ne possiamo più. C'è anche la categoria di chi non è né con l'uno né con l'altro, certo. Siamo i delusi. Sì, certo, dire abbiamo votato per 20 anni, adesso vogliamo ragazzi giovani, forse non bisognava votare gli anziani per 20 anni se si volevano i ragazzi giovani, cosa si può dire? 800 24 00 24, tra poco altri interventi. It's a magic number. Yes, it is. It's a magic number. Because 2 times 3 is 6. And 3 times 6 is 18. And the 18th letter in the alphabet is R. Yeah. We got 3 R's we're gonna talk about today. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. It's a magic. E questa è la nostra musica, la nostra sigla ormai di quando parliamo di cosa? Abbiamo già detto di raccolta differenziata, di rifiuti. Beh, questa è una bella canzone. È stata assorbita da una pubblicità nota che insomma le ha tolto un po' il significato originale, però è bella. E noi la recuperiamo, per i rifiuti. Esatto. E non è un commento alla canzone. E salutiamo volentieri Rossano Ercolini da Capannori. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. La settimana europea della riduzione dei rifiuti che si è aperta ieri, andrà avanti tutta la settimana, appunto, ci sembrava un'occasione adeguata, adatta, speciale, perfetta per ospitare, per la prima volta tra l'altro si può fare, un personaggio incredibile, ce lo consenta, quale è lei, Rossano? Perché adesso lei ci racconterà anche un po' la sua storia. Lei viene da Capannori, fa ancora il maestro elementare? Sì, sì, sì, sì, sì. Domani, adesso sono a Paola, in Calabria, e domattina ritornerò a scuola per incontrare la mia prima classe, la classe prima. Compito, facciamo un compito in classe subito? Li avvertiamo? No. Sono piccoli, sono piccoli. Sono una bella classina, sì, sono contento di questi bambini. Una bella classina, senti come è toscano, veloce. Toscano, stupendo. Rossano Ercolini, però l'abbiamo chiamato non tanto perché fa il maestro elementare, chi lo conosce lo sa, chi non sa chi è, perché non è mica detto. Lei ha vinto, prima di tutto, quest'anno il Goldman Environmental Prize, non so se ho pronunciato bene, un riconoscimento internazionale per l'ambiente, forse il più importante al mondo. Il premio Nobel per l'ambiente, diciamo. Giusto? Sì, molti, e non essendoci un premio Nobel attribuito dallo storico premio mondiale, viene considerato il premio Nobel per l'ambiente diretto agli attivisti. C'è una selezione per cui poi tra i cittadini attivi che si impegnano a favore dell'ambiente, dopo un rigoroso percorso vengono indicati 6 vincitori, ognuno per ogni continente, e io sono stato individuato per l'Europa. È stata una noi siamo felicissimi, lei è il nostro eroe, ha vinto il Nobel per l'ambiente. Non esageriamo. Il Nobel... Ecco. Bisogna essere molto contenti. Orgoglioso, ovviamente. Anche noi siamo orgogliosi. Non sottovaluto l'importanza del premio che sto spendendo a favore delle battaglie per rifiuti zero, perché, per le raccolte, perché è proprio questo il problema, Ercolini, che noi insomma di problemi in Italia su questo versante ne abbiamo. Abbiamo lei, abbiamo Capannori, adesso ci racconterà che cosa ha fatto anche per meritarsi questo premio. Abbiamo altre realtà, non solo Capannori, abbiamo Ponte delle Alpi, insomma ne abbiamo mille di cose fatte bene, poi ne abbiamo altre mille fatte male. E ieri c'è stata una manifestazione importante a Napoli, che è forse un po' una presa di coscienza anche di una incapacità che c'è stata in questi anni a parte di tutti, ma ci sono anche nomi e cognomi di responsabili per la tragedia della Terra dei Fuochi. Però prima di commentare magari anche questa cosa di attualità, perché lei si è conquistato questa patente? Quanti anni fa lei ha cominciato a parlare di rifiuti zero? Ma a parlare di buone pratiche di raccolta differenziata dal 1976, poi diciamo il titolo Rifiuti Zero, lo slogan Rifiuti Zero lo abbiamo cominciato a usare dall'inizio degli anni 2000, il non bruciamoci il futuro, a Capannori abbiamo sconfitto l'inceneritore, tutto è partito di lì, demmo vita alla campagna non bruciamoci il futuro, non dicevamo ovviamente solo dei no, ma proponevamo strade alternative, ecco, questa strada alternativa è diventata poi in modo sempre più compiuto Rifiuti Zero. Ecco, ma lei ha cominciato a parlarne, questa cosa ci incuriosisce anche, perché magari proprio facendo il maestro elementare e avendo di fronte a sé i bambini, cioè diciamo quelli che prendono in eredità il pianeta negli anni futuri, perché questo tema dei rifiuti è molto legato al tema del futuro, perché uno può nascondere lì per lì, come è successo per esempio in Campania, sottoterra i rifiuti, poi però 20 anni dopo vengono fuori le magagne. È stato questo la molla che l'ha spinto, oppure lei da sempre aveva un'attenzione su questo, insomma? Ma io partì praticamente da studente nel 1976, quando volevano fare una discarica nella mia frazione del comune di Capannori, che per la cronaca si chiama Camigliano, e da lì ho cominciato a sviluppare, oltre ad una sensibilità sociale, una sensibilità ambientale. Poi nel 1994 la regione toscana vuole realizzare 2 inceneritori nella provincia di Lucca, di cui uno su Capannori, e sicuramente l'essere un educatore, dover svolgere, mi fa molto piacere, una bella attività quella del maestro elementare, ha aiutato, perché io ho fatto la mattina il maestro, l'educatore dei bambini, nel pomeriggio e nella sera l'educatore della comunità, dove per educatore si intende educare ma anche essere educato. I bambini, non solo si insegna ai bambini, ma si imparano i nuovi linguaggi delle generazioni, si impara come prenderli, perché ogni generazione è diversa, quindi educare non vuol dire andare solo in una direzione per cui trasmetti, è un processo che è certamente, questo mi ha spinto, mi ha reso anche forse in grado di usare un linguaggio, di spiegare rifiuti zero ai bambini. Ecco, perché questo tra l'altro è un caso nel quale la protesta contro qualche cosa, in questo caso l'inceneritore, e ne abbiamo sentito parlare mille volte anche in Campania, però si è associata, si è sposata alla proposta per fare qualcos'altro, perché voi avete fatto a meno dell'inceneritore, perché siete riusciti a fare mille altre cose. Adesso per esempio a Capannori, anche grazie a lei, a che livello è la raccolta differenziata? Ma sicuramente il rifiuti zero è un movimento positivo, non ci fa paura il conflitto, ma dobbiamo andare oltre il conflitto e dobbiamo dimostrare che noi siamo qui, ci siamo per risolvere i problemi, non per crearne di ulteriori. A Capannori con questa filosofia siamo arrivati ad oltre l'80% di raccolta differenziata, ma soprattutto abbiamo ridotto del 40% comparato con la produzione dei rifiuti più elevata del 2004, la produzione pro capite. Quindi la buona notizia non è solo l'alto livello di raccolta differenziata, ma la riduzione dei rifiuti, che è l'obiettivo principale. Allora mi dà ragione quando io commentavo prima la notizia di Milano: non ce ne vorranno gli amministratori della città, nella quale tra l'altro viviamo noi, che ieri due giorni fa hanno reso noto questo primato di chili di raccolta differenziata per abitante pro capite, 149 chili l'anno. Sono stati fatti degli sforzi in questo senso, più di Parigi, Monaco, Berlino e non ricordo più quale altre capitali europee. Però io dicevo, non è che producendo tanti chili di raccolta differenziata, che va bene, si risolve il problema. Bisognerebbe produrre anche meno chili in generale di rifiuti, o no? Bisognerebbe vedere il dato complessivo dell'aumento o meno della produzione dei rifiuti. Sicuramente a Milano, con la partenza generalizzata su tutta la città del porta a porta della frazione organica, si sta facendo un lavoro eccezionale, molto importante, perché Milano non è Capannori, certo. È una grande città, una capitale europea, quindi quello che sta avvenendo a Milano è seguito per esempio da San Francisco, dalle grandi città della California. Ecco, certo, per rendere più completa la soddisfazione occorrerebbe capire se la produzione pro capite, come ha detto lei, è cresciuta o calata. Io presumo che sia calata, perché la parte di organico, che invece di andare a smaltimento va al compostaggio, certamente induce le famiglie a essere più attente alla gestione dei propri rifiuti, anche i ristoratori, i ristoranti, le pizzerie che producono tanti scarti organici. A Milano sta lavorando bene, lo dico anche però considerando che la Lombardia ha fatto troppi inceneritori, sì, e oggi ha un'offerta impiantistica troppo elevata, quindi si porrà il problema che si pone nel nord, per esempio Europa, dove hanno fatto enormi inceneritori e non hanno più da dare il cibo a questi impianti. Non sanno più come alimentare. Abbiamo più a Milano, ci sono più inceneritori di quelli che servono, e quindi per alimentarli dovremmo andare a prendere i rifiuti di altri. È un problema che si sta ponendo e si porrà sempre più, tant'è vero che la stessa regione Lombardia ha approvato una sorta di exit strategy, cioè di una graduale uscita, certo, perlomeno cominciare a spegnere alcuni inceneritori. Per esempio quello di Cremona, per esempio quello di Sesto San Giovanni, che sono vecchi impianti, nessuno rimpiangerà più questi impianti se non ci sono, se soprattutto partono le raccolte porta a porta. Rossano Ercolini, se vuole resti con noi, anzi è quasi un invito imperativo, dobbiamo fare una piccola pausa per il traffico, poi visto che abbiamo chiesto oggi agli ascoltatori la loro regola d'oro per ridurre i rifiuti, 800 24 00 24, noi mettiamo in palio anche le regole più belle a giudizio insindacabile nostro della redazione dei biglietti per la mostra di Andy Warhol, le chiediamo poi anche a lei Ercolini quali sono le famose 10 regole d'oro, per magari non tutte perché sennò ci mettiamo troppo tempo. Comunque è assolutamente il mio mito, Rossano Ercolini. Infatti una frase straordinaria che ha appena detto è: non ci fa paura il conflitto, ma dobbiamo andare oltre il conflitto. Questa me la tatuo. Ha capito Ercolini? Yeah. Complimenti. Grazie. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, rinnovo l'appello agli ascoltatori 800 24 0024 e a Rossano Ercolini da Capannori chiedo, visto che viviamo un po' di titoli noi giornalisti, ma insomma per semplificare, rifiuti zero è un titolo, va bene, e le 10 regole per ridurre i rifiuti saranno tutti dei titoli, però separazione alla fonte, raccolta porta a porta, compostaggio, riciclaggio, riduzione dei rifiuti, riuso, riparazione, tariffazione puntuale, recupero dei rifiuti, centri di ricarica e riprogettazione, azzeramento dei rifiuti. Io ho letto non so più da quale elenco, forse non è neanche il suo, ma ognuno avrà il suo. Ci dica però così alcune di queste regole, come si sostanziano, quali sono le più importanti, perché? Ma sicuramente lei sta parlando dei 10 passi, sì, per ottenere rifiuti zero. Il primo e il passo numero 8 sono quelli più importanti. I rifiuti esistono, dice il primo passo, solo perché io mischio la parte umida con la parte asciutta dei rifiuti. Solo allora ho quello che noi chiamiamo rifiuti, ma se io tengo separato in primo luogo la parte organica, la parte umida dalla parte asciutta, non ho rifiuti, ma ho preziosi materiali di scarto che sono dentro il cassonetto. Non a caso l'Unione Europea sta dicendo che nel cassonetto c'è una vera e propria miniera urbana. Il passo numero 8 ci dice che quello che rimane dopo il porta a porta, quel 20%, perché il 70-80% del, sì, problema lo risolve la comunità con la raccolta differenziata. Oggi in Italia, lo diceva lei, ci sono comunità che raggiungono il 75%, l'80%, l'85%. Il 20% che rimane va studiato. Va studiato perché è un errore di progettazione industriale. Questa va messo nelle mani dei produttori. Sentite qua. Prego. Va messo nelle mani dei produttori che lo hanno immesso sul mercato dei consumi e insieme a loro riprogettarlo. Cioè, io brutalizzo un attimo, io arrivo, cioè sono delle cose che non riesco a riciclare, le studio e cerco di capire perché sono state progettate così in modo che non possano essere separate, bravissimo, differenziate, sì, sì. C'è qualcosa che non va. Il produttore bravo deve essere quello che al prossimo giro, innovazione tecnologica, la fa diversamente. Bravissimo. Perfetto, lo stiamo facendo per esempio con le capsule del caffè, abbiamo scritto una lettera ai principali produttori a partire dalla Lavazza e devo dire che c'è stata e c'è una risposta, naturalmente le cose sono sempre più complicate, il mercato, tutto quello che vogliamo, però anche il produttore è aperto, ha interesse a sviluppare l'innovazione, a contribuire a far digerire quello che ancora rimane sullo stomaco del sistema di digestione dei rifiuti. Pensi che noi attraverso questo caso studio sulle capsule del caffè abbiamo innescato uno workshop dal quale la conclusione è che dai funghi dal fondo del caffè si producono i funghi. Infatti adesso a Capannori nelle iniziative per la riduzione, per la settimana di riduzione dei rifiuti, una di queste iniziative è iniziare un progetto di produzione dei funghi dalla coltivazione dei fondi del caffè. Cioè, cose incredibili. È bellissimo, delle differenziazioni incredibili. È un esempio di quella che viene chiamata la blue economy, cioè dalla culla alla culla. La produzione di uno scarto diventa sottoprodotto per la produzione di un prodotto alimentare. Tra l'altro, questo tipo di fungo che viene prodotto è il terzo più commercializzato, che quindi ha il terzo segmento di mercato più significativo in Europa. Quindi può essere anche alla base di una futura attività economica. Ma quindi il sistema è proprio quello. Cioè il sistema è che invece che dire semplicemente io non la butto via questa cosa, che io ci ricavo di nuovo qualcosa di utile. Quindi se certo, qualcuno ci può guadagnare qualcosa. Il fondo del caffè è anche bellissimo da vedersi. Beh, il fondo del caffè è bellissimo anche da leggere, direi. Questo però è un'altra cosa. Serve anche per curare la cellulite, quindi perché? Perché metterlo nei rifiuti? Mi scusi, è l'uovo di Colombo. Se ci pensiamo bene, noi chiamiamo rifiuti dei materiali che facilità possono essere reintrodotti nei cicli o industriali o agricoli nel caso del compost. Infatti quello è il modo, direi, forse riusciamo facendo un passo indietro a spiegare o perlomeno a sfatare definitivamente il mito che diciamo hanno tutti, che dicono sì io sto qua, faccio tanta fatica a dividere tutto, ma tanto poi loro ributtano tutto insieme e la differenziata non si fa. No, però moltissimi ancora tuttora parli con persone e dici sì ma io sto qua a dividere le pile, le medicine. Questa è una leggenda metropolitana, va sfatata, perché definitivamente alle prove è un reato, quindi ecco, non si può mischiare quello che la mettiamo città un punto ha diviso su questa cosa. Ottimo. Qua Rossano Ercolini, tra l'altro, dire cose a raccontare credo che ne avrebbe milioni, magari migliaia. diamoci così l'idea di risentirci, che ne so, presto, per continuare ogni sabato e ogni domenica. Noi abbiamo questo spazio, lo possiamo dedicare con interesse, ma, perché è straordinario. Anche tre volte al giorno, secondo anche me. Anche tre volte al giorno per risentirci. Che dici, eh? Perfetto, io sono con voi, vi ringrazio, anzi, per il... E noi ringraziamo lei. Anzi, guardi, se mi accetta nella sua classe, io ripeto volentieri le elementari, glielo dico proprio, ma molto volentieri. E fa sempre bene, tra l'altro, a me farebbe molto bene. È un maestro duro. Così, ma io vengo volentieri. Grazie, Rossano Arcolini. Così, per una volta, Gabardini potresti fare una scuola italiana. Esattamente. Esattamente. Oh, adesso facciamo qualche ascoltatore, almeno uno prima della pausa, e sentiamo Michele che ci chiama dalla Spezia. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Complimenti al sindaco di Capannori. Sì, non era il sindaco. Non è il sindaco, è il maestro elementare straordinario. Però è come se fosse... Anche è il Nobel dell'ambiente, diciamo, sì. Del 2013. Ottimo. Quindi forse la mia proposta, come si dice, viene a fagiolo, perché non so se si può fare in Italia. Io non vivo in Italia, sono momentaneamente in Italia. Sì. E mi occupo di rifiuti solidi da circa 20 anni e sì. Uno dei problemi dei rifiuti solidi è il costo del trasporto. Ora esistono degli aggregati sociali dove si può, come si dice, collettare il rifiuto. Per esempio, mi veniva in mente la scuola, no? Lei immagini una scuola di 2000 studenti, se ogni giorno ogni studente porta una lattina o una bottiglia di PET. Ah, ok, lei dice di portare i rifiuti in dei centri di raccolta anziché ognuno preoccuparsi di trasportarli. Mm. E quindi lei, esatto, propone le scuole, per esempio, come centro di raccolta. Esatto, aggregati sociali possono essere, bravo, per esempio le scuole. Quindi devo di nuovo iscrivermi a scuola. Direi che ogni telefonata si capisce che io devo ripetere le elementari, giusto? Ma non prendere tutto sul piano personale, accidenti. No, va bene. No, va bene, grazie. Però, Michele, questo potrebbe essere un suggerimento che concorre anche alla regola d'oro per ridurre i rifiuti e per vincere i biglietti della mostra di Andy Warhol. Non so se Michele sarà ancora in Italia e se vuole andare alla mostra di Warhol. Noi però ci fermiamo. No, e l'accettiamo come definizione, quindi l'accettiamo questa, intanto come definizione, come proposta. 800 24 00 24. Continuiamo dopo il giornale radio. Si può fare cronache da un paese migliore. A Padova è da 8 anni che c'è la raccolta dell'umido, ci scrive Maria al 349-238-6666. Io direi che un punto al Veneto glielo possiamo dare. Assolutamente. Un punto, sì, nella classifica, sì, delle buone notizie, perché 8 anni sono tanti, se è vero. Poi, va a verificare, come tutte le notizie della nostra classificazione, no, delle ma regioni. Io la faccio, la verifica dopo con calma, però sempre... intanto il punto lo assegniamo sulla fiducia. E rimanendo, secondo me, negli sms, sì? Mi piace la domanda che pone Camilla, che dice: ciao, abito a Milano e mi chiedo perché a casa faccio la differenziata e quando sono per strada invece no? Non ci vorrebbero forse anche i cestini che ci sono, cioè che anche nei cestini in stazione ci fosse la differenziata con l'umido? Però qualcosa con si comincia a vedere, no? L'umido no, ma è plastica, carta e vetro, sì, quelli no, quelli è vero, sì. E c'è un problema enorme che tutte le volte che uno si avvicina in quello dove c'è la carta, dentro trova una bottiglia, in quello del vetro, dentro trova della plastica, e quindi rimane un po' spiazzato e non sa dove buttare. Carlo, per te, dice: in Cina i contadini utilizzano gli escrementi dei loro animali per trasformarli in gas e ci cucinano. Noi, con tutta la nostra tecnologia occidentale, non ci siamo mai arrivati, dice Mario. Però abbiamo parlato di pipì, diciamo la sera tardi parleremo anche di altro, anche ecco, di altri escrementi. Vabbè. 800 24 00 24, cari ascoltatori, non vi spaventate dal racconto di Rossano Ercolini e dalle sue regole d'oro per ridurre i rifiuti. Raccontateci anche le vostre regole, magari più piccole, minime, che fate voi a casa vostra, che ne so, i trucchetti, raccogliete l'olio, andate all'oasi ecologica tante volte perché siete indecisi, anche questo vale. Potete partecipare a vincere ogni ascoltatore, 3 ascoltatori, 2 biglietti per la mostra di Andy Warhol, insomma. E soprattutto consigliarci, perché io ho proprio bisogno di trucchetti. Non vivo con mia mamma, ho bisogno di quei trucchetti, quelle cose che sanno solamente le persone che hanno differenziato tantissimo, dove si buttano, non so, le lische di pesce nell'umido. Gianni da Milano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Un saluto a tutti. Eccoci qua, prego. Ecco, io voglio segnalare che abito a Milano e da qualche tempo appunto nella mia zona viene fatta la differenziata per l'umido. Sì, sì. Però non esaltiamo tanto Milano, non incensiamo, perché i dati sono quelli che sono, poi bisogna vedere in realtà cosa avviene. Io nel mio condominio, per esempio, ho notato che nei cassonetti dell'umido, o qui fa spuntare fuori dei sacchetti di plastica. So. Gianni, hai ragione. È un problema dei suoi condomini, però. No, è un problema di ignoranza. Certo, è vero. Anch'io, infatti, l'ho detto al mio amministratore, ho chiamato per dire, mettete dei cartelli, chiarite, perché, per esempio, molti pensano che i sacchetti, quando sono trasparenti, sono buoni per la raccolta. E allora usano quelli che si usano al supermercato per metterci la frutta e la verdura. Che si sfaldano molto facilmente, effettivamente, no, però non sono biodegradabili. È il Mater B che, per esempio... Capite, ci sono persone che non capiscono, bisogna aiutarli a capire. Gianni, lei ha ragione a farci questa segnalazione e bisogna provvedere. A Milano tutti i condomini hanno degli amministratori, devono fare dei cartelli chiari, perché se no la gente molto sbaglia. Chiari, perché io sono stupido, io sono tra quelli che non capisce, per esempio. Lo so. Roberto da Trento, buongiorno. Buongiorno. Vabbè, Trento, siete altissimi con la raccolta differenziata. Lei su cosa voleva intervenire, però? Sulla raccolta differenziata credo che abbiamo un buon senso del dovere. Bravi, bravi. Ma ci chiama da una cabina telefonica? L'ultima cabina telefonica? No, sono in autostrada. Ah, perfetto. Cosa voleva dirci, Roberto? Una piccola osservazione sulla lealtà dei cosiddetti ministri lealisti. Vorrei sapere cosa succede. Sì. La Corte di Strasburgo accettasse il ricorso del Presidente Berlusconi sulla incostituzionalità della legge Cancellieri, anziché anticipare il voto di decadenza del senatore stesso. Quale legge Cancellieri, scusi? La legge Severino. Ah. Prego. Tanto sull'incostituzionalità, che non è la Corte di Strasburgo a decidere, quanto sulla... insomma, sulla liceità di questa cosa, perché non è che può decidere sulla nostra Costituzione. Quelli che sono i parametri europei. Va bene, ma perché lei fa questa domanda? Quando ci sarà una risposta, vedremo cosa succederà. Grazie, Roberto. 800 24 00 24. Più avanti con altri ascoltatori. Two-time Academy Award winner Kevin Spacey is coming back to the big screen this week. Kevin Spacey. L'enigmista è cadavere della prima scena. Le codice da Vinci, il Grale e la Maddalena. Blair Witch Project non è una storia vera. Decidi tu se ne vale la pena. Io e Marley, alla fine il cane muore. Nel film a 5, il cane muore. Bruce Willis, il Don Jackal, muore. Come cinema, con cinema e pane. In profondo rosso, l'assassino e la madre. Oh, parliamo di cinema. Ieri... anzi forse oggi, però finisce il Festival del Film di Roma. Ieri ci sono state le premiazioni e tra l'altro sul Corriere di oggi c'è anche una polemica. Caro Carlo Gabardini, che tu tra l'altro sei impegnato adesso su un altro film, hai appena fatto Il Pretore quest'estate, sì, ti ricordo. Certo. Tu che te ne intendi, che ne pensi? Perché è stato criticato il fatto che abbia vinto il docufilm, sì, il TIR, come migliore attrice Scarlett Johansson, che non è andata in onda, solo la sua voce è stata utilizzata. Il Corriere scrive una follia collettiva questa premiazione. Ho visto male, mi sembra un po' esagerata questa polemica. Ma non ho capito, la polemica è perché in realtà Scarlett Johansson in realtà presta solo la voce, sì, e quindi... ma in realtà si può dare un premio anche a qualcuno che presta semplicemente la voce, così non è che la voce non sia recitare, ecco, questo che voglio dire. Poi, così come premiare un docufilm anziché un film sarebbe qualcosa che non valorizza appieno il cinema. Ma questo però mi sembra un po'... la polemica secondo me è che Venezia finalmente, dopo una marea, sì, di anni, vota Sacro Gra, quindi un documentario, cosa che a Venezia non si vedeva da un sacco di tempo. Per esempio il Milano Film Festival, non per, sì, votare a quel mio volino, diciamo, di documentari li premiamo da sempre. Sappiamo che il cinema sono immagini in movimento, non è che sia solo la fiction, quindi un documentario va benissimo, può raccontare, può essere un film assolutamente che vince anche il primo premio. Il Festival del Film di Roma è stata anche, credo, la sede dove si è parlato di cinema, dove si sono presentati anche dei progetti. Prima proprio vogliamo parlare di un progetto che riguarda non tanto i film quanto le sale cinematografiche, progetto Old Cinema. Ne parliamo con Roberta Bonazza. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. voi avete a cuore le sale cinematografiche, le vecchie sale cinematografiche che stanno chiudendo, per esempio nei piccoli centri, nei piccoli paesi. Un tempo erano così il simbolo quasi della civiltà, no? Dell'urbanizzazione. Anche nei paesi arrivava il cinema, vuol dire che era la svolta, perché si entrava nel nuovo mondo. Adesso, per vari motivi, molte di queste sale stanno chiudendo, e questo è un elemento, diciamo, di preoccupazione per chi ama il cinema. Vero, Roberta? Certo, è un elemento di preoccupazione, e i dati sono quelli che oggettivamente, in maniera impietosa, proprio ci portano nella realtà di questo fenomeno, che è da molti anni che è in corso, ma che continua a manifestarsi. È il motivo per cui io e Ambra Kreiger, con questo progetto nazionale di ricerca, di documentazione, di riqualificazione dei cinema perduti, siamo partite nel 2011, e dai dati abbiamo voluto vedere nella realtà, e quindi siamo andate sul campo, in particolare in Trentino con il progetto pilota, per vedere cos'era rimasto di questi cinema che, come lei giustamente diceva, sono stati per anni significativi per le persone, sono entrati nelle loro memorie, nelle loro esperienze collettive, ma anche individuali, di formazione, no, iniziale. Voi avete anche, Roberta, delle cifre, no, per dare una dimensione di questa cosa qua, che poi fra l'altro sono anche, credo, posti di lavoro che si perdono, maestranze, professionalità, oltre che, diciamo così, punti di riferimento culturali poi per tutte le città. Quante sale hanno chiuso in questi anni? Ma guardi, i dati recenti, quelli dell'ANEC, dicono che solo dal 2001 al 2012 si sono chiuse 711 sale in Italia. E i dati mica poco. Mica poco. E i dati del 2013 non sono comunque consolanti, perché parlano di una diminuzione di un 10-11% di affluenza al cinema. Quindi biglietti staccati. Roberta, resta con noi, perché facciamo una piccola pausa per il traffico, poi ci spieghi bene il progetto Old Cinema. Qualcuno dirà che ci sono le multisala, chiudono i piccoli cinema, ma il cinema va avanti anche, cioè, per la quello. Questione è quella, o è semplicemente che è cambiato anche il modo di proiezione? Praticamente un po' tutto. Non c'è poi più la pellicola. D'altra parte, se diminuiscono anche i biglietti, il numero di biglietti fatti, evidentemente il saldo complessivamente degli spettatori è negativo, e soprattutto queste sale, piccole sale, magari anche così romantiche, e che erano nei piccoli paesini, no, dove uno poteva andare senza dover fare chilometri e chilometri, non ci sono più. Ecco, quelle quello è un peccato molto grave, perché se uno poi alla fine, per andare al cinema tutte le volte deve prendere la macchina e fare 20 km, gli passa anche un po' la voglia. Traffico, torniamo tra un attimo. Immagina l'immaginabile. www.ethsecurity.com. First in Security Cloud. Vi presenta Strade in diretta. Buongiorno, nessun problema al momento per chi è in viaggio, il traffico è scorrevole sulla rete, attenzione alla pioggia sull'autosole tra Chiusi e Magliano Sabina e sulla 12 Roma-Civitavecchia tra Fiumicino e Civitavecchia. Sulla tangenziale di Napoli è segnalata una vettura ferma tra la barriera di Napoli Ovest e Pozzuoli, verso Pozzuoli. A Roma città, difficoltà per un incidente sulla via Laurentina tra via di Vigna Murata e via delle Montagne Rocciose in uscita dalla capitale. Sempre a Roma, per lavori è interrotta la linea ferroviaria Roma-Lido tra le stazioni di Lido Centro e Cristoforo Colombo, e i collegamenti sono garantiti da bus navetta. È tutto, Strade di nuovo in diretta tra mezz'ora. Si può fare, si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo insieme a Roberta Bonazza del progetto Old Cinema. In che cosa consiste il vostro progetto? Voi state facendo, avete i dati, insomma ce li ha detti, una mappatura di questi cinema, e come vi state muovendo, cosa proponete? Ma guardi, come giustamente lei diceva, il progetto ha incontrato nel suo percorso tutta una serie anche di complessità che chiaramente l'argomento rimanda, perché il tema della nostalgia, della memoria, effettivamente lo abbiamo trovato e come, perché le storie che abbiamo trovato in Trentino sono state veramente particolari, storie di resistenza, di persone che appunto non si sono rese conto di quello che stava accadendo e che quindi hanno poi fallito perché avevano investito nella gestione del cinema in maniera totalizzante, come anche storie di ricordi personali di una signora che andava al cinema portandosi la legna nel 36, perché allora appunto il cinema era l'unico luogo dove le persone si ritrovavano e tutti partecipavano ad alimentare questa stufetta legna in un piccolissimo cinema di montagna a Fione, portando sotto braccio la legna per alimentare la stufetta. Ecco, da queste immagini che sono molto suggestive, che noi abbiamo raccolto in un docufilm che è stato presentato come il progetto alla Mostra del Cinema di Venezia, e dove abbiamo avuto la fortuna di avere anche il sostegno intellettuale di Tornatore, che con il suo film, diciamo, per primo, no, in qualche modo ha raccontato questo fenomeno. Ecco, diciamo, parliamo che di nuovo Cinema Paradiso. Nuovo, certo. Cinema Paradiso, certo. Certo. E diciamo che da lì, cioè da questa sì, cosa che è legata alla nostalgia e al ricordo, ci siamo resi conto anche della complessità di cosa vuol dire gestire un cinema, e quindi è proprio per questo che il progetto non vuole porsi come un progetto nostalgico, seppur crediamo nella documentazione, perché diversamente tutto scompare, cioè anche le tracce architettoniche, anche la memoria di quello che è stato un luogo. Quindi ma, noi crediamo, scusi, anche... ma secondo lei perché chiudono questi cinema? Cioè, ma... è una questione puramente economica, è una questione che ci sono le multisala, qual era il problema? Ma diciamo che tutta la crisi che è quella dei riti collettivi, insomma, che fiori di antropologi hanno raccontato, probabilmente è uno degli elementi, ma l'aspetto della trasformazione tecnologica sicuramente è quello che ha inciso maggiormente, per cui dall'avvento della televisione, che ci raccontava un signore del cinema Vittorio Di Mori, già allora le persone andavano al cinema per vedere l'ascia raddoppia, cioè i gestori. Beh, quando quasi nessuno aveva il televisore, si andava tutti insieme al bar a vedere l'ascia raddoppia. Esatto. Questo succede, era un rito collettivo, perché di riti collettivi ce n'è tuttora. Esatto. È da capire se sono nei piccoli cinema o se sono invece nelle multisale. Comunque, ottimo. Roberta, grazie per essere stata con noi. E noi però un progetto per rivitalizzare le sale cinematografiche ce l'abbiamo, ha a che fare con le nuove tecnologie, siamo fortissimi. Ed è la sigaretta elettronica, io voglio sperare, perché io volevo proporre, esatto, a chi apre questi i vecchi cinema, sì, che insomma bisogna anche recuperare il fatto che nei vecchi cinema si fumava, è quella la vera cosa, quindi adesso possiamo fumare la sigaretta elettronica. Questa potrebbe essere esempio. Una proposta, un'altra ce la racconta tra poco il nostro prossimo ospite. Eccoci qua, il nostro prossimo ospite annunciato, così in pompa magna, è Antonello Centomani del progetto MAIFI. Buongiorno Antonello. Buongiorno a voi, ciao Alessio, buongiorno, grazie. E ben ritrovato, perché avevamo parlato di questa cosa un po' di tempo fa nella vecchia versione di Si può fare. Adesso il progetto MAIFI, che ci spiegherai come vuole appunto rivitalizzare le sale cinematografiche attraverso però anche le nuove tecnologie, proporre quindi un nuovo modo di andare al cinema, è stato presentato, insomma, ha incrociato gli spettatori del Festival del Film di Roma e anche il Ministero per i Beni Culturali, che vi ha promesso una mano, un patrocinio. Antonello, intanto queste ultime notizie e poi qual è il progetto? Allora, appunto, partendo dalle ultime notizie, abbiamo avuto il piacere di presentare per la prima volta ufficialmente il progetto. Prima, dobbiamo dire, a Mantova l'8 ottobre, quindi recentemente, il mese scorso, alla FICE, le giornate annuali del cinema del Sé, che sono un po' appunto l'incontro annuale del cinema del Sé, gli Stati Generali, e ringraziando Mario Mazzetti e Lorini, presidente e vicepresidente della FICE, e riscuotendo anche lì un gran successo tra i professionisti del settore, gli esercenti in particolar modo, e poi proprio la settimana scorsa la conferenza annuale del cinema, che per la prima volta, e di questo dobbiamo ringraziare appunto il ministro Brai e la direzione generale del cinema Nicola Borrelli, era una conferenza aperta e partecipata secondo una call su 18 temi che riguardano l'industria in tutti i suoi aspetti. Noi dove sta andando il cinema? Però voi avete presentato il vostro progetto, che consiste... Esatto. E il nostro progetto, che appunto ricordiamo è un progetto che consiste nella rivitalizzazione delle sale e del cinema in generale, anche se appunto a partire dalle sale che sono appunto il punto più sofferente in questo momento, soprattutto in Italia, per sia per affluenza che per offerta, e quindi c'è bisogno appunto di sfruttare queste nuove tecnologie. Però raccontaci bene senso, il progetto, nel senso, Antonello, per affluenza, perché... per tecnologia, che cosa vuol dire? Ci sono troppe sale, troppo poche, sono troppo, la distribuzione è troppo poco capillare, qual è innanzitutto c'è un problema di contenuti e diciamo una piccola premessa: l'avvento della digitalizzazione è una cosa che si sta compiendo ancora quest'anno, ancora non siamo al 100% del digitale nelle sale, si intende supporti di proiezione, quindi proiettori, certo, e i film. In teoria dovrebbe entro l'anno essere tutti adeguati, giusto? Così vuole la comunità europea. Esattamente, così vuole la comunità europea, così ha detto Hollywood a febbraio 2013, certo. Quindi, e noi ubbidiamo. Esatto. Ma il problema di contenuti si riferisce al tipo di film? Il problema di contenuti è semplicemente questo, che ogni anno vengono prodotti 50.000 nuovi contenuti e di questi 50.000, 10.000 sono in Europa e solo una piccola percentuale raggiunge il pubblico. Per non parlare quello che succede nelle sale in Italia, traduco io brutalizzando, scusami Antonello, sì, i grandi distributori non vogliono rischiare e non portano in sala film che non siano sicuri che facciano cassetta, quindi solo con 600 copie del mainstream di contenuti belli rimangono lì a tacere. E qui arriva il vostro progetto, però Antonello spiegacelo, perché abbiamo già fatto 4 minuti, se no non diciamo l'innovazione, la cosa bella, cioè, abbiamo fatto un sacco di ringraziamenti, di fare diciamo un cinema on demand, cioè una piattaforma internet nella quale io vado, mi scelgo il film, per esempio un film che è andato al Festival di Toronto, oppure un vecchio film tipo Ladri di biciclette, mi faccio il pubblico, mi trovo il cinema dove andare a vederlo e vado a vederlo, che... è un'idea bellissima. Infatti, grazie mille. Infatti, bisogna farla spiegare ad Alessio, secondo me. No, vabbè, io è bellissima, perché detta così c'è tutto un lavoro difficile e complesso, certo, che devono mettere insieme tante persone, quindi spiegaci un po' meglio questo progetto, per far incontrare la domanda con offerta. E quindi, siccome ogni film ha un suo pubblico, questo pubblico appunto può richiedere, per ogni film di quelli disponibili, può richiedere la proiezione nella sala del proprio quartiere o più vicino, quella che preferisce, e mettendo insieme appunto un piccolo gruppo di persone che permettono la sostenibilità economica della proiezione. E qual è il numero minimo? Il numero minimo sarà variabile a seconda del film, della città, e quindi appunto la piattaforma lavora su questo, su algoritmi che permettono la sostenibilità economica della proiezione, in modo da rendere possibili tutte le proiezioni richieste. Questo appunto è un lavoro molto difficile che la piattaforma dovrà fare, ecco, però appunto permetterà di riempire il cinema in tutte le fasce orarie, perché appunto i cinema oggi sono chiusi, la mattina non ne parliamo, abbiamo dimenticato le mattine cosa sono, ma sono chiusi anche il pomeriggio. Ah già, perché uno si può decidere l'ora in cui si vuole, dice siamo tutti d'accordo che andiamo al cinema a mezzogiorno meno 27 e quello lì è l'orario, è perfetto, alle 11.33 parte Ladri di biciclette. Senti Antonello, però dacci una buona notizia, cioè rinfrancaci, quando parte questo progetto, soprattutto se parte? Io questo volevo spendere molto pochi secondi su questo tema, perché le innovazioni costano un sacco di soldi e noi appunto, dopo 2 anni di progettazione e di confronto con i principali attori che sono esercenti, categorie di settore, gli spettatori anche in tutte le ricerche e la progettazione versione beta, ora siamo alla fase della richiesta di finanziamenti per poterla sviluppare, che non sono pochi, perché purtroppo per fare le cose per bene e al passo con i tempi servono molti soldi, molte energie, non si creano da un momento all'altro, e soprattutto quando sono cose che hanno a che fare con le persone fisiche. E non è esattamente il momento dei molti soldi per il cinema, per l'intrattenimento. Ma e quindi adesso voi state cercando fondi, partecipando a bandi, non so se fate il crowdfunding anche voi, che va molto di moda, oppure no? No, il crowdfunding no, una scelta che non vogliamo adottare, perché non sembra quella adatta, ma siccome il progetto ha una sostenibilità economica più che alta, confidiamo negli investitori privati che stiamo contattando. Benissimo. E nei programmi anche nazionali e europei. Adesso esce Europa Creativa, che dedica tutta una parte dei finanziamenti a media, 56% di 1,5 miliardi di euro, e alle nuove modalità di fruizione e distribuzione della cultura. Facendo un pronostico, quando sarete pronti? Adesso questo... Così più o meno, per capire, fra 20 anni, dopodomani, giovedì, non lo so. Un pronostico saremo pronti con una versione beta. Dopo i finanziamenti tra un anno. Antonello, in 30 secondi facciamo un appello all'investitore tipo, perché sai, Radio 24 ha un pubblico anche di questo tipo qua, cioè abbiamo anche imprenditori, certo. E quindi potrebbe essere il modo giusto, il momento giusto, dicendo anche tra l'altro che questa cosa, se non ricordo male, già funziona in qualche altro paese. Esattamente, sì, questo tipo di funziona già negli Stati Uniti e in Olanda. E sono appunto le piattaforme che hanno aperto la strada e è una modalità che sta appunto prendendo piede, seguendo un trend che è quello della partecipazione dal basso. E quindi rivolgendoci a investitori tipici, chiaramente noi possiamo dire che la nostra sostenibilità economica, il nostro break even point è al secondo anno, quindi su un mercato molto alto che sono circa 1500 sale in Italia a cui poter accedere e sulle quali investire. L'investitore sta andando via, devi proprio inchiodarlo. Ma l'ha detto, dai. Antonello, grazie. Grazie mille. In bocca grazie al lupo. Grazie voi ancora, Crepi, grazie ancora a voi. Ci pensiamo noi a inchiodare l'investitore, perché li ricontattiamo, li riconvochiamo, perché questo è un progetto potenzialmente molto grosso, molto bello per il cinema, per incrociare la tradizione della sala cinematografica con l'innovazione tecnologica. È una bella risposta, questi ragazzi ce la stanno dando. Speriamo. Adesso posso dirti un SMS che mi sembra una bella sintesi della puntata fino adesso. Ma non abbiamo SMS. Ancora finito. Lo so, però è comunque una sintesi allora, parziale che dice: in quale bidone butto il senatore decaduto, visto che stiamo parlando di rifiuti e scissioni. Questo è un po' un colpo basso. Comunque, Ciro da Lucca, buongiorno. Buongiorno. Tra l'altro, buongiorno. Dove sta Capannoli? Non so se lei ha sentito l'intervista a Ercolini. Prego, cosa voleva dire Ciro? Sì, sì, è proprio in riferimento sì? all'intervista di Rossano Ercolini. Sì. Volevo fare una testimonianza. Prego. Lui stava parlando di una riduzione dei rifiuti del 40%. Ora non mi ricordo in che data aveva fatto questo rilevamento. Io credo che il problema, l'ho riscontrato personalmente, sì? Che tanta gente, no, ora non so quantificarla quanto, i rifiuti le impacchetta, le mette in macchina e le va a buttare nei comuni limitrofi. Questo l'ho riscontrato personalmente. Perché va il più lontano possibile per non farsi beccare, perché ha paura di prendere una multa, perché magari ha fatto un errore, non sa se le batterie vanno insieme alle aspirine. Sì, sì, ma lei dice, scusi Ciro, ma lei dice gente normale o uno che ha un'impresa di edile, non sa dove smaltire i rifiuti? No, perché no, gente normale che prende la macchina per portare i rifiuti, io questa cosa non... Quando hai il terrore della multa dell'umido, immagino multa che ci sia. A casa mia, quelli che sbagliano a fare la raccolta non gli fanno la multa a nessuno, stanno lì tranquilli. Sei in un condominio di buoni adesso. Nel mio sparo una buona soluzione sarebbe mettere telecamere dove ci sono i cassonetti. Ma ne abbiamo già troppe di telecamere, Ciro. Anche i cassonetti. Però guarda, grazie Ciro, questa qua ce la segniamo come ricetta, come regola telecamere. Anche se regole personali non ne sono arrivate più che altro idee proposte per il sistema in generale. Comunque Ciro da Lucca dice telecamere o controllo, sappi che i cassonetti, per esempio in alcune città dell'Emilia Romagna, hanno il chip. Non c'è la telecamera, ma c'è il chip. Per aprirlo devi andare con la tua schedina. Dicono chi sei, così ti beccano. La telecamera sta dentro, certo. E se sbagli qualcosa ti beccano. Bella inquadratura da dentro il cassonetto. Lo so. Secondo me, cioè, può piacere veramente moltissimo a Lars von Trier. Potrebbe essere un progetto molto dogma. 800 24 00 24, a tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. With my own two hands, and I can clean up the earth, Lord, with my own two hands, and I can reach out to you, oh, with my own two hands, with my own two hands. A brighter place. I'm gonna make it a safer place. Con le loro mani, con le loro stesse mani, alcuni cittadini di Bologna hanno iniziato a ripulire i portici della loro città, non solo dai graffiti, ma anche forse soprattutto da quello, da un po' di tempo. È una delle ultime iniziative, l'ultima di una serie di iniziative del Laboratorio per la Sussidiarietà, un laboratorio che una ne fa e 100, ma anche 1000 ne pensa. Noi salutiamo, lo abbiamo convocato, Gregorio Arena, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Che nella vita di giorno buongiorno fa il professore di diritto amministrativo all'Università di Trento, ma la sera si traveste da presidente dell'associazione Laboratorio per la Sussidiarietà. Io ho scherzato, ma insomma... abbiamo un sacco di insegnanti che professori e che poi di notte si trasformano in supereroi dell'ambiente. Vedi che bel mondo, perché abbiamo intervistato prima Rossano Ercolini, il maestro di Capannoni, che ha dato vita in Italia alla strategia zero rifiuti. Oggi adesso abbiamo un altro caso bello. Abbiamo citato l'iniziativa di Bologna, perché è di lì che abbiamo letto sui giornali questa iniziativa, e poi siamo risaliti a voi. È una cosa che è nata in seno a voi, questa qua. Sì, dunque diciamo che così, pensando al titolo della vostra trasmissione, direi che quello che noi stiamo facendo a Bologna è una cosa molto semplice ma indispensabile, cioè sì, diamo gambe giuridiche al si può fare, che è il titolo della vostra trasmissione. Perfetto. Perché attualmente non si può fare, mi spiego meglio, in Italia ci sono migliaia di persone che si stanno prendendo cura dei luoghi dove vivono, beni culturali, piazze, sì, verde pubblico, i cinema di cui avete parlato, sì, poco fa, in fondo voglio dire sono anch'essi in qualche modo un bene comune, solo che vanno a sbattere contro il problema di amministrazioni pubbliche che gli dicono non si può fare, non potete farlo, perché non ci sono i regolamenti che consentono di disciplinare queste attività dei cittadini. Cioè io sono un cittadino, scusi se la interrompo, sì, per tradurre così semplificando, sono un cittadino X che vorrebbe fare un intervento Y, pulire un parco, prendersi, sì, cura, investire magari anche del tempo, dei soldi, però poi non si può fare perché è un bene pubblico, perché ci vuole l'assicurazione, perché lei stia a casa sua, eccetera. E voi arrivate lì e date delle soluzioni anche a questi problemi, ci provate almeno. Noi quello che facciamo è, siccome c'è un principio costituzionale dal 2001 in Italia, il principio appunto di sussidiarietà, quel nome difficile da pronunciare che lei citava prima e per cui noi esistiamo, e questo principio in realtà legittima i cittadini a occuparsi dei luoghi pubblici, dei beni comuni, del proprio paese. Allora stiamo traducendo questo in un regolamento comunale, questo è il punto cruciale. Stiamo a Bologna da un paio, sì, d'anni insieme con i funzionari del comune, lavorando a questo, e stiamo scrivendo questo, è il primo regolamento comunale italiano per un l'amministrazione po' bello condivisa, sì, e la cosa più bella è che quando questo regolamento sarà pronto, io penso nel giro di 2-3 mesi, noi il 22 febbraio, segnategli la data se volete, se sì, subito, certo, è un sabato mattina dalle, sì, 10 alle 13 a Bologna, con il sindaco di Bologna, il ministro Delrio e altre personalità, noi regaleremo questo regolamento a tutti i comuni d'Italia. Che bello, che bene, bello, di modo che noi... faccia scuola, diciamo. Allora, intanto diamoci subito, Gregorio, appuntamento, sì, subito dopo questa cosa qua, anzi prima, perché voi iniziate alle 10, noi siamo in onda fino alle 10 il sabato, magari facciamo un collegamentino, sì, così saremo sul pezzo anche noi. Stiamo parlando del 22 febbraio? Sì. Quindi sono confermato mattina fino al 22 febbraio? Credo, scusi, sì, che mi occupo di cose meschine mie personali. Il nostro stagista. Sono lo stagista. Il nostro stagista opinionista. Voglio... Pensavo di finire a dicembre. Però spezzare una lancia, mi scusi, Gregorio. Sì, esatto, si può fare. Grazie. Devo spezzare una lancia a favore della sussidiarietà. Mi scusi, Gregorio, aspetti un attimo. Aspetti un attimo. Gregorio, mi faccia dire una cosa a me, perché io devo, parlo agli ascoltatori, che già c'è qualcuno che io lo so, li conosco quasi tutti, uno per uno, quelli di Radio 24, che stanno dicendo: ma questa cosa, la sussidiarietà, ma che vuol dire? Deve essere lo Stato a occuparsi di questo, di quest'altro, dei beni culturali, dei cinema, della scuola, di tutto. E sappiamo che c'è una parte di italiani che giustamente, io dico, anche credono a questo, e infatti lo Stato non deve arretrare o fare passi indietro. Qua stiamo parlando però di un'altra cosa, cioè di persone che mettono le loro energie, il tempo libero che ne hanno, o perché sono pensionati, o perché sono disoccupati, o perché lavorano, sono felici, ma nel tempo libero vogliono fare delle cose, investire, eccetera. Bisogna dare gli strumenti per poter fare qualcosa anche loro, perché è giusto che questa cosa si possa fare. Chiusa parentesi, prego. Riapriamola subito, perché sono assolutamente d'accordo con lei. Tantissime volte quando giro l'Italia per parlare di queste cose mi viene fatta la stessa obiezione, cioè io pago le tasse, ho diritto che le amministrazioni mi forniscono servizi. è sacrosanto, però appunto l'essere cittadino attivo non è una supplenza, è un'alleanza, cioè non è un tappare i buchi di inefficienza dell'amministrazione, è un essere protagonisti. Questo paese è nostro, se non ce ne prendiamo cura noi, chi se ne prende cura? Quindi non è un problema di inefficienza dell'amministrazione, è che questi sono i posti dove noi viviamo, e in effetti il problema appunto è che c'è un sacco di gente. Noi nel sito di Labsus, appunto il laboratorio per la sussidiarietà, abbiamo centinaia di casi di persone che in giro per l'Italia si stanno prendendo cura dei beni comuni. Manca questo strumento, cioè dare la possibilità alle amministrazioni di riconoscere nei cittadini degli alleati, delle persone che hanno capacità, ma non solo bisogni. Giustamente lei dice che va capita questa questione dell'alleanza, perché sennò sembra semplicemente che è tappare un buco. Prima Alessio diceva molto bene che infatti conosce veramente tutti gli ascoltatori, perché c'è un SMS che dice: io rifiuti li butto sempre nel cassonetto dei paesi limitrofi per protesta. La tassa dei rifiuti è rimasta uguale. Io non faccio la differenziata, ti è Stefano. Hai capito? Cioè, per dire, nel senso che giustamente uno dice: voi mi alzate le tasse, e però poi la differenziata devo farla io. Voi mi alzate le tasse, però i portici di Bologna devo andare a pulirli io personalmente tirando sulle cartacce. Poi io sono d'accordo con quello che sta dicendo, però dobbiamo spiegare forse questa cosa, come funziona. Giustamente, come sta dicendo lei, voi state cercando di fare un regolamento che faccia scuola e che poi venga adottato da tutti i comuni, cioè che questa roba qui sia compresa dalle amministrazioni comunali. Dico giusto? Dai cittadini è già stata capita, cioè in realtà questo problema del supplire a una carenza dell'amministrazione di fatto poi non c'è, perché poi la gente si rimbocca le maniche ed è contenta di farlo. E una cosa che è importante da dire è che loro fanno la manutenzione dei luoghi, ma in realtà stanno facendo la manutenzione dei legami di comunità. Questo è il punto veramente importante, cioè in un paese frammentato, impaurito e insicuro come siamo diventati noi, il fatto che queste persone la domenica mattina si rimboccano le maniche, si mettono a ripulire, che ne so, i portici di Bologna, come posso dire, appunto, è una cura della comunità più ancora che una cura dei... Condivido assolutamente in pieno, ha molta ragione, cioè che è quello che crea, forse ricrea il tessuto sociale che in questo momento sembra particolarmente assente. Sì, cioè sì, al di là di pulire, che è perfetto, che è ottimo di pulire, certo, i portici di Bologna, questo valore c'è di ricreare connessione fra gli esseri umani che si guardano in faccia e si dicono: noi abitiamo nella stessa città, nello stesso paese, nello stesso Gregorio, posto, questo posto è nostro. Facciamo così, visto che anche qua adesso abbiamo la pausa per il traffico, poi dobbiamo chiudere, dobbiamo dire anche chi vince i biglietti per la mostra di Andy Warhol, perché abbiamo gli ascoltatori che sono intervenuti su questo. Diamoci appuntamento anche prima del 22 febbraio e raccontiamo qualcun'altra delle vostre mille iniziative, perché basta andare sul sito per vedere che ci sono notizie, iniziative, associazioni di cittadini, c'è di tutto. Quindi adesso siamo partiti da Bologna, però vi state allargando sul territorio nazionale. Ci sentiamo presto allora. Benissimo. In bocca al lupo. Grazie mille. Grazie per tutto quello che fate. Allora, io un ascoltatore lo voglio sentire subito. Vediamo. Bruna dalla provincia di Milano, intanto, se ha qualcosa, la regola d'oro sui rifiuti ce l'ha? Dunque, beh, non è una regola d'oro, però è una domanda che sì, io mi sono posta fin dall'inizio, da quando tantissimi anni fa ho iniziato a fare la raccolta differenziata. Il comune di Novate Milanese l'ha sempre fatta molto bene. Sì. E volevo chiedere, il sughero è una sostanza naturale? Sì. Io ho sempre chiesto anche alla piattaforma ecologica dove posso buttarlo, sì, mi hanno sempre detto di buttarlo nei rifiuti messi, nel secco. Bruna, allora, questa è una segnalazione importante, recuperare? Ha ragione, perché è domanda. Io so che ci siamo imbattuti in passato sui progetti di questo tipo, che però sono attivi, per esempio, quando c'è la Fiera del Vino a Verona, e allora lì ci sono i grandi raccoglitori Vinitaly. Però fuori da questi grandi eventi c'è un'associazione, una grande azienda, se non ricordo male, italo-portoghese, non ricordo il nome, che fa questa cosa qua. Però lei ha ragione, bisognerebbe renderla attiva tutto l'anno. Facciamo anche Laura da Roma in un secondo, poi il traffico. Laura, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo solo dare la mia piccola ricetta di ciclo. Io per motivi personali ho dovuto fare 4 traslochi dall'inizio dell'anno. Sì. Allora, ho sempre utilizzato i cartoni chiedendoli ai supermercati. Sì. E tra l'altro, diciamo, tra un traslocco e quell'altro li ho anche conservati, perché alcuni sono veramente molto robusti. E poi soprattutto è giusto che li conservi, perché se ne fai 4 all'anno è ovvio che li conservi. Adesso infatti fanno parte della famiglia questi cartoni. Esatto. Quindi lei con gli stessi cartoni ha fatto 4 traslochi. E soprattutto non li ha mai comprati, perché già dalla prima volta li ha chiesti, diciamo, in usufrutto da un supermercato. Vabbè, sembra un ottimo trucco. Però l'avevo fatto anch'io a suo tempo, credo sia un classico. Laura, voleva aggiungere qualcosa? E niente, anche il pluriball per avvolgere i mobili, anche quello con la dovuta accortezza si può riciclare. Con cosa li avvolge i mobili lei? Il pluriball. Il pluriball. E che cos'è il pluriball? È quel coso con tutte le palline bellissime. Ah, quelle che scoppiano. Pa, pa, esatto, pa, pa. Che come antistress è stupendo. Io purtroppo ne consumo delle metrate semplicemente, diciamo, se, come antistress. Se ne ha in avanzo, Laura, esatto, glielo spedisca a Gabardini. Grazie, Laura partecipa okay, con le sue regole d'oro sui traslochi, riciclare i cartoni e anche il, come si chiama? Pluriball. Pluriball per il prossimo successivo trasloco, specialmente se sai che lo stai per fare. Potrai correre nel sole, scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. No, prosegue il nostro viaggio nelle città italiane candidate capitali europee della cultura nel 2019, perché noi già sappiamo che sarà una città italiana, è stato deciso dall'Europa, non sappiamo quale città sarà, c'erano molte candidate proprio in questi giorni, è stata decisa la shortlist, oh, noi abbiamo sentito molte città sentito e adesso abbiamo i nomi delle città della lista ristretta che quindi si candidano alla stretta finale. Sentiamo. Trullo di tamburi. Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena. Spero di aver detto bene. Noi abbiamo convocato il sindaco di Siena, Bruno Valentini. Buongiorno. Eccomi con voi, buongiorno a tutti. E anche congratulazioni perché siete entrati, paf, nella stretta finale. Sì, diciamo che ce lo aspettavamo perché il progetto che abbiamo elaborato sì? è di altissima qualità, perché punta a proiettare nel XXI secolo la straordinaria storia di Siena e dell'Italia medievale. Ah, beh certo, di storia medievale Siena potreste fare una lezione cattedratica a tutti. Quindi già questo è l'imprinting della vostra candidatura, sì, la forte tradizione. Lei pensi che nel 1309 la città di Siena, allora capitale di una repubblica, inventò il Costituto, che è il primo insieme di leggi che regolano il governo di una città in volgare perché tutti la capissero. Infatti sulle tecniche di divulgazione della scienza e della conoscenza moderna si basa una parte dei nostri progetti. Mm-hmm. Ora è bellissimo, cioè è una sorta di Costituzione però scritta che il popolo possa capirla con precisione. Esatto, infatti noi ci ispiriamo anche al messaggio di Leonardo, perché Leonardo da Vinci è morto 500 anni prima del 2019, e noi ci ispiriamo a questo grande genio toscano che è stato anche un'eccellenza mondiale nel campo della divulgazione, applicando alla diffusione delle idee e della cultura le nuove tecniche di comunicazione digitali e delle nuove tecnologie. Senta, quanto potrebbe pesare però all'estero su Siena, la domanda è inevitabile, la questione del Monte dei Paschi, lo scandalo, insomma, perché voi siete anche la città della banca ed è un vanto anche questo, era un vanto finché non è andato tutto un po' a rotoli, no, adesso guardi, bisogna recuperare un po'. Sì, allora guardi, secondo me pesa moltissimo, però al contrario quello si può pensare, nel senso che Siena è stata il teatro internazionale di una delle più grandi speculazioni finanziarie della storia d'Europa. E noi vogliamo partire da lì per passare questa nottata, sì, puntando su bellezza e cultura. Noi vogliamo dimostrare che non solo Siena, ma tutte le città, l'Italia di mezzo e l'Europa di mezzo, perché è fatta da tante piccole città, che sono state, se non distrutte, messe in ginocchio dalla speculazione finanziaria, possono recuperare puntando sulle radici dell'anima europea, che è poi la cultura che possiamo insegnare a tutto il mondo. Mm. Insomma, vabbè, complimenti, tanto ci risentiremo sicuramente perché noi abbiamo fatto una cavalcata con le città candidate, adesso abbiamo la lista ristretta, Siena, grazie intanto al sindaco Bruno Valentini. Cioè, rifaremo tutto il giro? No, giusto? Vabbè, facciamo Cagliari che non l'abbiamo ancora fatta, magari è molto poi short, risentiremo comunque, più avanti, sì, Lecce, Perugia e Ravenna, sono perché 5. Così vediamo come si preparano insomma alla foto finish. E combatteranno dobbiamo per quanto chiudere tempo? Per un anno? Chiudiamo, non so, chiudiamo. 2019 c'è tempo, esatto, ancora c'è 5 tempo. Anni. Dobbiamo dire chi vince i biglietti per la mostra di Andy Warhol. Allora, giudizio insindacabile della redazione vincono. Alessandra da Milano che ci ha proposto la raccolta degli occhiali usati. E poi vince Gianni da Milano che più che altro è un invito a utilizzare i sacchetti giusti per la raccolta dell'umido, non i sacchetti di plastica, quelli biodegradabili. Quindi esatto, più che una regola un invito. E poi Laura da Roma, la sua regola d'oro è riutilizzare i cartoni del trasloco più volte perché tanto spesso in quella fase lì della vita in cui cambi casa spesso, soprattutto anche questo, esatto, è un riciclo. Se fai 10 traslochi episodi all'anno, diciamo. Va bene, noi ringraziamo gli ascoltatori, ringraziamo Giorgio De Luca, Andrea Piana, Riccardo Buccero, oggi in assistenza in diretta specialmente per noi, e poi ringraziamo Peter Bescapè. Chi altri ringraziamo? Niente, noi ci salutiamo. Sì. Carlo Gabardino, Alessio Maurizio, ci sentiamo sabato prossimo. Sì, direi buona domenica a tutti. Anche chi ci ascolta. Buon appetito e buon ascolto a chi ci sente in podcast. Podcast. Ciao. Per crescere bisogna incrementare i consumi. Per consumare è necessario produrre qualcosa che qualcuno acquisti. Proviamo a creare un marchio per i prodotti effettivamente creati in Italia. Condanniamo seriamente le imitazioni e damogli tanta, tanta pubblicità. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può